Triste, solitario, I Final. Sembra uscita dalla grande pena di Soriano la storia di Hector Cooper, esonerato dal Parma una partita dalla fine, proprio quella contro l'Inter, in cui una squadra si giocherà la salvezza e l'altra uno scudetto continuamente rinviato. Per il popolo interista Cooper significa 5 maggio, data tra le più infauste della storia del club. Ai parmigiani, più modestamente, ricordava Passarella, storico detentore di un inattaccabile primato, 5 partite e 5 sconfitte per la modica somma di 5 miliardi, del cavalier Tanzi, dunque anche un po' nostri, come si sarebbe scoperto poi. Toccherà all'allenatore della primavera, Andrea Manzo, guidare domenica la squadra contro l'Inter, o più probabilmente alla vecchia guardia di spogliatoio, Bucci, Lucarelli, Morrone. Il presidente Ghirardi alla fine ha preso una decisione tanto clamorosa quanto sofferta, la stessa che Moratti ha coltivato invano dalla sera di Inter-Liverpool in poi.